Linee d'ombra di Matteo Caccia. Mio nonno ha sempre vissuto su una bicicletta perché non ha mai avuto la patente, quindi io da piccolo mi ricordo, il mio ricordo non sono tanto legati alla bicicletta come competizione, ma alla bicicletta proprio come strumento per il lavoro. Da poco avevo trovato un lavoro che mi piaceva veramente, accompagnatore turistico per ciclisti stranieri lungo le strade d'Italia. Storie di cicloturisti e di maglie nere in una puntata che si intitola E pedalare. Milano, si inizia il 29esimo Giro d'Italia. Sulla strada di Magenta il sindaco Greppi sta per dare il via. Ecco Bruno Roghi, il simpatico direttore della Rosa. 79 sono gli atleti che prendono il via. L'orologio segna le 11:40, parecchio in ritardo su quanto era stabilito. Colpa di qualche equipe che ama dormire. A Sedriano Pasquini scatta, guadagna 200 metri di vantaggio. A Serse Coppi insegue, ma Pasquini non sarà raggiunto che al Ticino, dove i girini traversano in gruppo serrato il ponte provvisorio ancora in legno. Ed eccoci a Torino. In testa sono Couture e Bevilacqua, entrambi della Villa Triestina. A Couture il primo traguardo e la prima maglia rosa. Fa una certa emozione portare alla vittoria i colori di Trieste. Fa una certa emozione portare alla vittoria i colori di Trieste, perché quel Giro d'Italia, il Giro d'Italia del 1946, non era un giro come gli altri. Questa è una storia che racconteremo più avanti all'interno di questa puntata. Racconteremo, come sempre facciamo, un pezzo di quella storia. Ma la puntata di oggi, che si intitola E pedalare, ci racconta di un momento molto particolare di questo paese. Un momento che in qualche modo, con tutti i dovuti paragoni e con le dovute differenze, può assomigliare a quello che stiamo vivendo adesso. Noi stiamo vivendo un lockdown, cioè stiamo vivendo un momento in cui siamo tutti in casa per combattere un virus. In quegli anni, negli anni precedenti a questo Giro d'Italia che sentite raccontare da questa voce stentorea tipica dei cinegiornali o dei radiogiornali o dei telegiornali dell'epoca, cinegiornali all'epoca nel 46 la TV non c'era ancora, arrivata nel 54, quindi era chiaramente uno di quei brevi documentari che venivano mandati al cinema. Ecco, in quel 1946 questo Giro d'Italia era il giro che riunificava l'Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo quegli anni devastanti di bombardamenti, di morti, di battaglie sul nostro territorio. Ed era proprio il primo avvenimento che in qualche modo riportava le immagini, le voci, soprattutto era la radio in particolar modo a seguire il Giro d'Italia in quell'epoca, riportava tutti quanti ad un unico sentire, cioè che facevamo parte tutti di un unico paese. E vi dicevo, Giordano Couture, vincitore di quella prima tappa del Giro del 46, che tutti ricordano come il Giro della Rinascita, Giordano Couture era triestino e nel 46 Trieste non era ancora italiana, era in parte in mano agli alleati, insomma era un luogo di confine, lo è ancora una città, una meravigliosa città di confine, ma sostanzialmente non era italiana, e quindi il fatto che un triestino arrivasse primo nella tappa del Giro d'Italia era una sorta di Trieste è anche italiana, questo era quello che si immaginavano all'epoca i corridori. Ecco, vi racconteremo anche di queste storie in questa puntata di Linee d'ombra che si intitola E pedalare, perché la linea d'ombra che varcheremo oggi è una linea che varcheremo attraverso e grazie a delle biciclette. Entrambe le storie che vi racconteremo parlano di biciclette e parlano di ciclismo. La prima storia che ci ha raccontato Gianluca è la storia di un uomo che per hobby va in bicicletta, lo fa diventare in parte anche un lavoro, fa l'accompagnatore, avete sentito in apertura, no? Fa l'accompagnatore cicloturistico e durante una di queste giornate succede una di quelle cose che ti stravolgono, che stravolgono la tua vita, che sì, davvero, dietro a una curva varcano una linea di confine dalla quale non ritorni più indietro. E poi la seconda storia, una seconda storia, quella di oggi, a cui sono particolarmente affezionata perché l'ho raccolta di prima mano, di prima voce, personalmente, ormai 15 anni fa. Era il 2005, dalla voce del protagonista di quella storia, che era un vecchio ciclista. Era un ciclista che aveva corso quel Giro d'Italia, quello del 46, si chiamava Luigi Malabrocca, ed era diventato famoso non perché lo avesse vinto, non per certificati meriti sportivi, ma perché aveva avuto una grande intuizione. Aveva intuito che arrivando ultimo al Giro d'Italia la gente lo amava, lo adorava e gli faceva dei regali. Senza nemmeno volerlo, lui inventò quella cosa che che si chiamava la maglia nera. Visto che il primo in classifica indossava una maglia rosa, l'ultimo venne soprannominato la maglia nera, anche se una maglia nera non esisteva. Di fatto venne nominato, soprannominato in quel modo lì. Ebbene, vi racconteremo anche quella storia oggi. Ve la racconteremo partendo dal proprio da quel giro. Brevemente vi racconteremo il giro del 46 e come Luigi Malabrocca ha inventato la maglia nera. Insomma, mettetevi comodi, se ancora non potete uscire, se ancora siete chiusi nelle vostre case, vi portiamo in giro un pochettino noi con delle storie in bicicletta. Benvenuti a Linee d'Ombra. Era da poco che avevo trovato un lavoro che mi piaceva veramente. Accompagnatore turistico per ciclisti stranieri lungo le strade d'Italia. In verità avevo un'altra occupazione, come artigiano, nel settore edile, ma il fatto di andare in bici lungo la penisola mi affascinava e costituiva un ulteriore introito per le mie finanze e quelle della mia famiglia. L'agenzia per la quale lavoravo prediligeva clienti essenzialmente anglofoni, provenienti dagli Stati Uniti, dal Canada e dall'Australia. I pacchetti turistici riguardavano soprattutto l'Abruzzo, regione dalla quale provengo, e poi Marche, Sicilia, Sardegna e la costiera amalfitana. Fu in quella primavera inoltrata che ci trovammo appunto lungo la costiera amalfitana con un gruppo di ciclisti australiani molto, molto facoltosi, tutti provenienti da famiglie ebree scampate alla Shoah e trasferitesi nella terra dei canguri. La stagione era quella ideale per pedalare lungo le strade della costiera. Il profumo intenso dei limoni, delle rose, erano talmente forti da stordirti, specialmente per chi, come noi, andava in giro in bici. Le nostre tappe consistevano nell'effettuare anelli che, partendo dalla costa, si inerpicavano su per i Monti Lattari, all'interno del Parco del Cilento. Mi innamorai subito di quella terra, ricca di colori e profumi che mi sarebbero rimasti nel cuore. Ma il 13 di maggio cambiò qualcosa. L'accompagnatore turistico è quello che, diciamo, precede i ciclisti, li indirizza sul percorso, anche se i ciclisti hanno una cartina, a loro viene data una cartina o una traccia sul satellitare. Precede i ciclisti, li guida, perché molto spesso le strade italiane hanno delle piccole variazioni rispetto magari a un percorso prestabilito, e fa anche un po' da mediatore culturale. Quindi se si entra in un bar, in un posto, se si parla, se si interagisce con una persona del posto, l'accompagnatore ha anche una funzione di mediazione culturale, quindi anche, deve avere anche un atteggiamento anche empatico. Eravamo saliti da Capaccio Scalo, vicino Pestum, per effettuare una salita che ci avrebbe portato oltre Monteforte Cilento. La mia compagnia di clienti era molto allegra. Avevo portato anche una telecamera per riprendere le loro evoluzioni. Il tempo ci assisteva, nonostante da quelle parti non fosse raro qualche scroscio di pioggia improvviso. Sulla strada del ritorno avevo iniziato a prendere confidenza con uno dei ciclisti. Arno si chiamava, un imprenditore di successo che spesso amava trascorrere le sue vacanze in Italia. Era un uomo molto gioviale, curioso, il quale mi riempiva di domande alle quali tentavo di rispondere, nonostante il mio inglese non fosse proprio fluente. Me la cavavo, in ogni caso. Eravamo all'ingresso di Monteforte Cilento quando, perso il contatto con il gruppo a causa del nostro chiacchierare, decidemmo di forzare la nostra andatura per ricongiungerci con gli altri. Arno, mi dissero dopo, era stato un uomo sempre molto competitivo e amava essere alla testa del gruppo, anche quando usciva in bici con gli altri, solo per una passeggiata. Iniziò così a tirare e io pensai bene di lasciarlo andare, tanto gli altri erano in paese ad aspettarci e ci saremmo dovuti fermare comunque per una sosta. Lo vidi scomparire a grande velocità dietro una curva tra le case che immetteva nel rettilineo della strada provinciale. La curva era delimitata da un muretto basso, comune su quelle strade, il quale si affacciava sull'orto di una casa posto sotto il livello stradale. effettuai anch'io la curva, sicuro che avrei visto Arno alla fine del rettilineo, là in fondo, ma niente. Mi sembrò strano, visto che eravamo non molto lontani, che l'australiano dopo la curva avesse potuto distanziarmi di un centinaio di metri. Mi fermai. No, non poteva essere. Mi girai e iniziai a fissare il muretto della curva. Tornai indietro. Le gambe cominciarono a tremarmi. Presi coraggio e mi affacciai. Lì in fondo, a una decina di metri sotto di me, giaceva lui, Arno, la bicicletta ancora attaccata a un piede e nessun segno di vita. Non ricordo esattamente quello che accadde nei 5 minuti successivi. Riuscii a chiamare a gran voce il gruppo che vedevo alla fine del rettilineo, il quale non si era accorto di nulla. Uno di loro era un medico e tentò di rianimarlo, ma non ci fu nulla da fare. Questo Arno era un figlio di persone, di ebrei scampati alla Shoah che si erano rifugiati in Australia. Quindi lui erano di origine polacca e aveva fatto fortuna nell'ambito della ristorazione. In ogni caso era un imprenditore, però amava tantissimo l'Italia, quindi è una persona comunque molto curiosa. Io quel poco che l'ho frequentato in quella settimana prima che succedesse, era una persona che era molto molto curiosa, molto voleva sapere le cose. Addirittura prima che morisse io gli stavo insegnando le parolacce in italiano e ci stavamo facendo tante risate qualche minuto prima che insomma succedesse questa disgrazia. La perizia stabilì che il ciclista, nell'effettuare la curva ad alta velocità, aveva sbandato andando a finire contro il muretto che, a causa della sua altezza, non aveva impedito che finisse giù. Nei giorni seguenti, nonostante il tour continuasse, fui coinvolto in una cerimonia particolare, dato che i miei clienti erano di regione ebraica osservante. Tutti gli amici di Arno, visto che ero l'ultimo ad averlo visto in vita, vollero che partecipassi alla cerimonia del lavaggio del corpo e alla sua vestizione sotto le direttive di un rabbino provenuto da Napoli. Il tutto avvenne nell'obitorio dell'ospedale di Vallo di Lucania. Fu la giornata più strana di tutta la mia vita. Io, con la kippah in testa, attorniato da un gruppo di ricchi ebrei dentro l'obitorio di un paese del sud Italia, a celebrare un rito antichissimo e a me sconosciuto. A cena i miei clienti vollero che brindassi alla salute di Arno e che suonassi qualcosa in suo onore. Negli anni spesso mi sono domandato sul fatto che la morte si presenti nei modi e nei tempi più inaspettati a chiunque, in qualsiasi posto del mondo, dietro ogni curva. You can say the sun is shining if you really want to. I can see the moon and it seems so clear. You can take a road that takes you to the stars. Now I can take a road that'll see me through. I can take a road that'll see me through. E pedalare si intitola la puntata di oggi. Avete capito anche il motivo. La storia di Gianluca è una storia particolare perché è vero che ha un finale a sorpresa, anzi in realtà ha un intermezzo a sorpresa, perché quello che succede a metà della storia. La storia non finisce lì, non finisce con la scomparsa di questo Arno, di questo turista che Gianluca incontra per lavoro. Finisce dopo, finisce con la sua commemorazione, con la celebrazione di questo funerale così particolare. E a noi piaciuta questa storia perché abbiamo trovato davvero una forma di leggerezza nelle parole di Gianluca nel trattare un argomento che non è così semplice, che è l'argomento della morte, che moltissimi dicono fa parte della vita, però sì, un conto è dirlo, un conto invece è capirlo. E Gianluca, secondo noi, grazie alla sua storia, in qualche modo ce l'ha fatto capire. Pronto? Ciao Gianluca, buongiorno. Ciao, ciao Matteo, ciao. Senti, ciao. Innanzitutto, a quanti anni fa risaliva questa storia? Nel 2014 è accaduto. Ok, 6 anni fa. Giugno del 2014. Sei anni sì. Fa. Senti, tu che cosa ti ricordi di questo Arno, oltre a quello che ci hai detto? Cioè, che tipo era, che ricordi hai di lui? Una persona molto gioviale, che aveva già avuto altre esperienze di ciclismo in Italia, amava molto l'Italia, quindi ritornava spesso. Ed era la prima volta per lui sulla costiera amalfitana, nel Cilento. Tu però sei abruzzese, giusto Gianluca? Mi dicevi prima fuori onda, sei per esattezza di Ortona. Sì, di Ortona. Sono aquilano, ma sto a Ortona da tanti anni. E cosa fai adesso a Ortona? Io mi occupo di piccole ristrutturazioni di interni edilizie. Ok, senti. Sono artigiano, adesso non ancora mi posso muovere tanto. Infatti ti avrei chiesto se stai lavorando un po' oppure no. Sì. Stai facendo qualcosa? Riesci o sei proprio fermo? No, non lo posso fare, però mi sto adoperando per sistemare il mio magazzino, che è sempre in disordine da 2 mesi. Sto aggiustando il magazzino, è perfetto, ho contato tutti i picchi che avevo. se sbaglia ad avere ancora qualche settimana a disposizione, lo rinnovi completamente. Sì, sì. Alla fine. Ricontavo di nuovo, le facevo cadere di nuovo dentro, le rimischiavo e le ricontavo. Senti, invece questa attività, diciamo, parallela dell'accompagnatore, sì, cicloturistico, la fai ancora? Ti capita di farla? Beh, diciamo che dipende un attimo dalle richieste. In genere le richieste vengono fatte nei primi mesi dell'anno, quindi in base a quelle che saranno le richieste, il mio titolare pianifica i tour, che possono essere tour con una guida o tour self-guided, li chiamano. Okay. Cioè, il titolare dà solamente la cartina e poi i ciclisti si arrangiano. Nel caso mio, nel caso di questo del Cilento o altri casi come la Sardegna, sono io che accompagno le persone, faccio anche un po' da mediatore culturale, se vogliamo. Ah, ok, così. Che bello, quindi riesci a ritagliarti un po' di spazio. Ecco, avendo una partita IVA, diciamo, cioè sono i pro e i contro, quindi io riesco, sapendo da in anticipo quello che poi andrò a fare in estate, mi riesco a ritagliare queste 2 settimane, 3 settimane. Ma quindi devi tenerti in allenamento tanto? Beh, allora c'è un'uscita, in genere c'è un'uscita che è quella del fine settimana, che io ne faccio una molto molto lunga. Io nasco come podista, io faccio l'ultramaratone. Ah. Però amo tantissimo fare uscite molto lunghe. Io non faccio uscite a tutta birra con la bicicletta. Esco la mattina alle 8, mi faccio 200 km per le montagne e scendo. Quindi per me la bicicletta è più cioè lo stare in bicicletta per molte ore. Tu, Gianluca, sei sposato o fidanzato di lungo corso? Sì, sono sposato da oltre 20 anni, ho due figli e 2 ragazze che adesso sono agli studi sul computer, perché non possono fare una all'università e una certo. Ancora al liceo. E in casa come la prendono queste tue lunghe uscite domenicali? Cerco di prima devo mediare, diciamo che la bicicletta può essere causa di divorzio, la corsa no, perché magari allora io per non uscendo una sola volta a settimana non è che do fastidio più di tanto. Certo. E in genere gli altri piccoli gli allenamenti di corsa mi occupano sì e no 2-3 ore, dipende dal tipo di allenamento. Poi in genere, se voglio fare qualche allenamento più specifico, uso dei rulli, quindi attacco la bicicletta sopra questo macchinario che mi consente di stare con la bicicletta dentro casa, quindi salvo il matrimonio e salvo l'alleanza. Quindi ogni tanto ti vengono a trovare. I rulli tra l'altro fanno sudare tantissimo, perché sei al chiuso. Sì, io ho due spettatori di eccezione quando faccio i rulli, sono i miei 2 cani che mi guardano interdetti, mi vedono, ma questo qua che fa sui rulli, che suda come se... Certo, mi ricordo un cartone animato o qualcosa in cui c'erano dei cani che guardava della gente che faceva corsa o bicicletta, sì, e dicevano, e il loro pensiero era: ma perché questi si stancano? In teoria in natura bisogna conservare le energie, no, sprecarle. Sì, quindi probabilmente sì, sì, è quello. Quindi che pensano, metto magari sopra un film, mi metto col tablet, ci metto un film. Adesso sto rifacendo con quello che sto facendo a casa adesso, mi sto rifacendo tutta la serie di Bud Spencer e Terenzi che mi tengono compagnia. Senti, l'ultima cosa, Gianluca, invece, sì, su quel giorno, su quella cerimonia alla fine, sì, alla fine ci sono stati dei canti, ci sono state delle celebrazioni di qualche tipo che, sì, ti hanno... Io ti devo dire la verità, è stata una cosa talmente surreale, mi sembrava di stare in uno di quei film, hanno incominciato, c'era questo rabbino che praticamente declamava da questo libro, non so che cosa fosse, dei versi con una particolare cadenza. Okay. E tutti loro rispondevano, io ero in silenzio, mi sono trovato coinvolto con queste persone dietro con la chippa in testa, mi sembrava una cosa molto strana, però poi la cosa bella, tra parentesi, vogliamo, nella tragedia, certo, che loro hanno preso questo evento tragico come una celebrazione anche della vita, perché loro mi hanno chiesto, come io suono la chitarra da tantissimi anni pure, okay, mi hanno chiesto, e visto che ero stata l'ultima persona a vederlo in vita, hanno voluto innanzitutto che partecipassi a questa cerimonia nell'obitorio. Dopo fatto questo, hanno voluto che io brindassi con loro, e mm-hmm, poi la sera ho suonato un paio di canzoni, eravamo a Capaccio in un agriturismo, a cena abbiamo brindato sempre alla memoria di Arno, e ho suonato dei brani in suo onore, chiarissimo, dei brani strumentali, così, chiarissimo. Quindi, è stata una cerimonia, loro non hanno proprio questo senso della tragedia in se stessa, hanno anche questo grande senso della vita, del ringraziamento, del fatto che loro siano vivi, una celebrazione anche positiva, se vogliamo. Guarda, ma infatti era quello che dicevo, era quello che dicevi in apertura riguardo alla tua storia, che insomma ha questa davvero questa potenza che ha a che fare, nonostante l'evento tragico, più con la vita che con la morte. Siamo stati molto felici di raccontarla. Gianluca, ti auguro delle belle pedalate, delle belle corse, in attesa di poter riuscire a farle. Grazie. In bocca al lupo per tutto. Grazie mille. A presto. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is si intitola E pedalare la puntata di oggi. E grazie a Gianluca per averci raccontato, anche con questo garbo e con questa delicatezza, un momento come quello che ha vissuto, un momento molto, oltre che molto triste, anche molto strano. Non so quante volte capiti di perdere una persona che si è conosciuto da poco, una persona con cui magari hai un legame minuscolo, che è nato lì per lì, appunto durante un viaggio, durante un incontro, una vacanza, come in questo caso. È davvero un sapore strano quello che rimane, perché non c'è un affetto profondo, però c'è come una vicinanza umana, come la sensazione che alla fine, come giustamente lui dice, le cose accadono a chiunque nella maniera più inaspettata e allo stesso modo, e se non è lui o non è lei, potevo essere io. Grazie mille a Gianluca per questa storia. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo qui a raccontare un'altra storia che parla dell'ultimo in classifica. Linee d'ombra. La prossima storia è una storia che conosco molto bene, perché l'ho raccolta ormai più di 10 anni fa dalla viva voce del protagonista, dell'autore di questa piccola epica ciclistica tutta italiana. Il protagonista di questa storia si chiama Luigi Malabrocca. Era un signore che, quando l'ho conosciuto nel 2005, aveva 80 anni ed era un ex ciclista di quel periodo di cui tutti hanno memoria, perché si parla del ciclismo del secondo dopoguerra, si parla di coppie di Bartali. Lui era un ottimo gregario, un ciclista, un corridore che teneva il passo, insomma non era un fuoriclasse, e a un certo punto si accorse che arrivare ultimo al Giro d'Italia, arrivò per sbaglio la prima volta, perché aveva bucato una gomma e la gente al traguardo gli aveva regalato un pollo. Lui, quindi, Luigi Malabrocca, che era un uomo di grande intuito, aveva capito che in quella corsa lì, nel Giro d'Italia, in quell'epoca, l'epoca in cui l'Italia si riprendeva dopo una guerra, la Seconda Guerra Mondiale, e probabilmente le persone a bordi della strada si sentivano vicino a uno che faceva una fatica incredibile come lui per arrivare magari trentesimo, quarantesimo, e aveva capito appunto che arrivare ultimo gli conveniva, era più facile, perché la gente era più facile, perdonatemi, gli conveniva, non era così facile, perché doveva controllare il tempo massimo, correva con due orologi Luigi Malabrocca, però dicevo, in qualche modo portava a casa più soldi che non se fosse arrivato decimo, perché la gente gli regalava salumi, prosciutti, formaggi, addirittura soldi in alcuni casi. La storia di Luigi Malabrocca è una storia che è stata raccontata più volte. Io appunto tanti anni fa decisi di raccoglierla e ci feci un piccolo spettacolo che girò per qualche tempo nei teatri italiani, e poi insomma gli altri impegni, in particolar modo il lavoro per la radio, mi ha portato a fare altro. Ma è una storia a cui sono rimasto molto affezionato e insomma questa è una storia che devo dire nel passaggio che sto per raccontarvi, che riguarda il Giro d'Italia del 1946, quasi di buon auspicio per quello che stiamo vivendo oggi. Sapete che tutti gli avvenimenti sportivi sono stati annullati per via del virus, anche il Giro d'Italia. Ebbene, il Giro d'Italia quell'anno fu il primo avvenimento sportivo che riunì tutta l'Italia dopo la guerra. Quindi questi corridori che correvano lungo queste strade sterrate, bombardate, in mezzo a città devastate, sono state il primo evento, la prima scheggia di un'Italia che si stava rialzando. Quindi raccontiamo questa storia in questa puntata che si intitola Pedalare, la storia di Luigi Malabrocca, anche con la speranza che a breve possiamo tutti quanti tornare a correre per le strade del nostro paese. La guerra è finita da poco e dopo 5 anni di riposo e imboscamento forzato, la carovana del Giro d'Italia si rimette in moto. Tecnicamente quella di Luigi Malabrocca non è una squadra, come la Bianchi di Coppi o la Legnano di Bartali. È un gruppo, cioè è un insieme di corridori indipendenti che, privi del supporto e dell'ingaggio di un vero e proprio team organizzato, senza un direttore sportivo, senza un massaggiatore, senza rifornimenti adeguati, attraversa l'Italia alla ricerca di un po' di gloria e un po' di denaro. Il gruppo di Luigi Malabrocca si chiama Milan Gazzetta dello Sport. È lo stesso giornale che organizza il giro, che si è associata con la squadra milanista, e sotto la loro ala corrono 5 corridori. Luigi è uno di loro. Le notizie sportive di quei giorni accompagnano quelle della politica, ovviamente della cronaca, che risuonano epocali. De Nicola sale al Quirinale, formata l'Assemblea Costituente, De Gasperi è Presidente del Consiglio. I titoli dei quotidiani raccontano insomma di un'Italia che si sta riformando, mentre le prime réclame rivelano invece un'Italia che si sta trasformando. Accanto a "la guerra ti ha rovinato lo stomaco", "magnesia bisolata aromatic", troviamo robe tipo "nuovi piroscafi per il servizio diretto Genova-Buenos Aires, durata 17 giorni, disponibile la terza classe". Insomma, si fugge, si emigra, per disperazione, per fame. E poi, ovviamente, i titoli sportivi. "Oggi il via al Giro d'Italia", scrive a grandi lettere il Corriere della Sera. "Il Giro della Rinascita ha il suo segreto, si chiama fiducia", strilla invece la Gazzetta dello Sport. È una scoperta dell'Italia quella che i ciclisti si trovano a compiere. Molti di loro cresciuti nelle campagne, alcuni in posti che non hanno nemmeno mai sentito nominare, correranno in città mai viste prima. A volte sembra di pedalare in un'altra nazione, confessano timidi ai microfoni della radio alcuni corridori, però è una bella esperienza, dicono. Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Roma, Perugia, Trento. Queste sono le città che al suo passaggio la carovana unisce con un unico invisibile filo. E poi c'è Trieste. Trieste non è solo una città occupata per metà dagli jugoslavi e per metà dagli alleati. Trieste rappresenta il tassello mancante al grande puzzle dell'Italia unita. Lo si vede sin dalla prima tappa, proprio il 15 di giugno. Dovrebbe essere una tappa di trasferimento, una tappa di studio, ma i cuori si infiammano quando all'arrivo, nel velodromo di Torino, fa il suo ingresso per primo il triestino Giordano Cottur. Il pubblico controlla il numero del suo pettorale sul giornale e poi qualcuno grida: "È Cottur! È il triestino! Viva Trieste! Viva la nostra città!" Ma la vera apoteosi la si vive in una delle ultime tappe, quelle che da Rovigo porta proprio verso la città giuliana, verso Trieste. Il giro arriva a Trieste, insomma l'Italia arriva a Trieste. Nei pressi di Pieris, a 40 km dal traguardo, un gruppo di titini, dei facinorosi che vogliono impedire l'arrivo della corsa italiana in città, fa partire una sassaiola contro il gruppo che si trova in testa. Esplodono delle fucilate, in pochi attimi è un fuggi-fuggi generale, corridori che si buttano nei fossi, motociclisti che si riparano dietro le auto. Anche lui, acquattato sotto un camion, con una paura incredibile e il rimpianto di essersi trovato per una volta in testa, Malabrocca sacramenta contro di sé, contro Trieste e contro l'Italia Unita, finché non lo fanno salire insieme ad altri 16 corridori su un camion che li porta in città, dove una folla in delirio li sta aspettando. Scendono dal camion proprio pochi chilometri prima del traguardo e fingono di inscenare una volata, che per ovvi motivi viene fatta vincere a Giordano Cottur. Malabrocca finisce quarto. La tappa però è stata formalmente chiusa a Pieris e tutti i corridori sono stati classificati primi a pari merito. E Luigi fra sé pensa: bah, chissà se è meglio arrivare quarto da solo, primo in 50, oppure arrivare in fondo. Perché la grande intenzione di Luigi Malabrocca sta tutta lì, sta tutta in quel oppure. Alla fine il gruppo, quando corre, ammassa i ciclisti, li ammassa in un groviglio di nomi, di colori, di numeri, che li rende invisibili. La loro identità viene donata a questo essere che annulla ogni individualità in nome della sopravvivenza, proprio del gruppo. Insomma, o hai gambe e fiato per tirartene fuori e vincere, oppure ne rimani invischiato. Insomma, o arrivi davanti o arrivi nel gruppo. Oppure. In tutti i miei pensieri, di sempre una di ieri insiste. Uno che ha voglia di cantare come un valzer che ti fa girare la testa. Come una musica ostinata, sentita e mai scordata, Trieste. Un vento all'improvviso che ti bacia forte in viso, Trieste. Mare, cielo senza fondo, ombelico del mio mondo, Trieste. Una nave impavesata di bianco, blu e celeste, Trieste. Una rosa in un bicchiere, due gerani al davanzale, Trieste floreale. Canzoni antiche, l'osteria, di vino, donne, nostalgia, Trieste mia. Foto di gruppo a Miramare, in divisa di marina, Trieste in cartolina. E i tuoi vecchi in riva al mare, una sirena per sognare, Trieste. Trieste valzerina, allegre e boreale, Trieste imperiale. Favorita del sultano e dell'imperatore, Trieste, l'amore. Come una donna tanto amata, perduta e poi cercata, Trieste ritrovata. Tricolore a primavera, bandiera di frontiera, Trieste bersagliera. Speranza rifiorita e subito tradita, Trieste ferita. Romana repubblicana, vendicare la sottana, se devi essere italiana. La tappa che porta da Cesena ad Ancona non è nulla di che, se non per il bel panorama. Grandi pianure, strade che costeggiano l'Adriatico, filari di oleandri. Ma la Brocca fa il suo dovere di buon gregario e poi tira il fiato nel cuore del gruppo. A un certo punto fa una gomma, si attarda a ripararla, tanto sa che la velocità non è elevata, quindi non si cura di fare in fretta. Si accorge di essere arrivato ultimo solo quando, sotto il traguardo, il megafono gracchia e, nonostante le forature, ultimo ma a testa alta, Luigi Malabrocca. Signore e signori, un bel applauso a Malabrocca. Malabrocca alza la testa, vede questa folla che l'applaude e tra sé e pensa: ma stanno applaudendo me? I corridori all'epoca sono alloggiati dove capita: conventi, palestre, oratori, non si trovano sempre alberghi per tutti. Ad Ancona, ad esempio, dormono in una scuola. Mentre si sta riposando dopo la gara, Malabrocca a un certo punto si sente chiamare. C'è qualcuno che lo cerca. Va nel cortile e si trova davanti un contadino marchigiano che lo aspetta con in braccio una pecora viva. E gli dice: io ero l'ultimo di 6 figli e non ho mai preso un H. Tu sei arrivato ultimo, prenditi sto agnellino e contentati. Mentre porta sta pecora al ristorante più vicino per venderla, il Luigi comincia a fare girare i suoi ingranaggi e pensa prima all'entusiasmo dello speaker che urla il suo nome, poi gli applausi, adesso questo che gli fa un regalo. Dato che la situazione è chiaramente disastrata all'epoca, la Gazzetta, oltre ai premi di classifica, ha previsto un obolo per gli sfortunati del giro, si chiama così. Si tratta di $1 a tappa per chi ha forato di più oppure chi è caduto ma ha avuto la forza di arrivare in fondo. Nessuno però ha mai pensato di premiare l'ultimo, o meglio, mai nessuno dell'organizzazione. Il giorno dopo in gara Luigi Malabrocca comincia a pensare, lo fa sempre, pedala e pensa e ci riprova. E dopo la prima esperienza ad Ancona si accorge che l'accoglienza è sempre la stessa. Forse perché sta simpatico al tizio che urla nel megafono, forse perché la gente attorno ha bisogno di un motivo per festeggiare, tant'è che tenendo sempre d'occhio il tempo massimo, Malabrocca si vede consegnati la sera doni di ogni tipo, bottiglie d'olio, damigiane di vino, formaggi, prosciutti, anche soldi quando capita. Ed è così che, quasi tre settimane dopo la partenza, alle 4 del pomeriggio di domenica 7 luglio 1946, in un'arena di Milano festante, dopo 20 tappe, 3.500 chilometri, si chiude il 29esimo Giro d'Italia, il Giro della Rinascita. Lo vince Gino Bartali, con 47 secondi di vantaggio sul secondo, Fausto Coppi, e 4 ore, 9 minuti e 34 secondi sull'ultimo, Luigi Malabrocca. Dopo i festeggiamenti e i saluti di rito, Luigi, tanto per cambiare, inforca la bici e torna verso Garlasco. Quando entra in casa, saluta la moglie, la ninfa, col bacio di chi non vede la sua sposa da più di un mese. Lei lo guarda e gli fa la solita domanda. E allora, Luis, che cosa hai portato a casa? Dal tascone posteriore della maglia Malabrocca tira fuori una busta, l'appoggia sul tavolo della cucina. La moglie la apre e conta i soldi. Sono 60.000 lire. Per capirci, Alfredo Martini, ottimo corridore, futuro CT della Nazionale, è giunto nono, a Luigi gli ha fatto anche da gregario, ne ha portati a casa a malapena 50. Poco dopo Luigi si sfila la maglia per lavarla. È talmente sporca di terra, polvere e catrame, che a guardarla bene sembra quasi nera. Ora ascoltiamo le strade in diretta e poi torniamo con una storia dei vostri diari dalla quarantena. Linee d'ombra. Dopo l'ultima conferenza stampa del Presidente del Consiglio c'è stata una grande ricerca di un termine, c'è stata anche molta ironia intorno a un termine, quel termine è congiunti, se ne è parlato tanto, si è cercato tanto. Un amico mi ha fatto vedere i dati della ricerca su Google della parola congiunti, che fino a quel giorno erano pari a zero e poi sono impennati e sono rimasti alti. Per capire chi sono questi congiunti si è capito anche che non è così chiaro, non è così definito, la Presidenza del Consiglio ha dovuto spiegare meglio, si parla di familiari, però in realtà non sono solo familiari, sono anche le persone care. Ecco, il prossimo diario della quarantena parla in fondo anche un pochettino di questo, parla di una coppia che sta insieme da 5 anni, che non è sposata e che vive lontano l'uno dall'altra, è una relazione a distanza, così come ce ne sono tantissime, soprattutto per motivi di lavoro, perché il lavoro di una persona è qui e quello di un'altra è là, oppure le residenze sono lontane e si cercano i tempi e i modi giusti per potersi avvicinare. Ecco, è chiaro che l'arrivo del Covid-19 ha stravolto le vite di tutti e ha stravolto anche le vite di quelle persone che vivono lontane e che fanno fatica ad avvicinarsi, o meglio non possono avvicinarsi, a meno che non siano congiunti o in qualche modo riescano a trovare il modo per esserlo. Ecco, la prossima storia ci racconta proprio di questo, di due persone che sono molto lontane e che aspettano con la speranza che prima o poi ce la faremo. Muoversi in lungo e in largo per l'Italia per me è la consuetudine. A volte per lavoro, altre per diletto, tantissime per amore. Da quasi 6 anni a questa parte infatti vivo una storia a distanza. Io vengo da quella zona di frontiera solcata dal Po, tra Mantova, Modena e Reggio Emilia. Salumi buoni, vino rosso, persone genuine. Lei invece abita in quell'angolo di paradiso che controbilancia l'infernale caos di Roma. Uno specchio d'acqua e sole a pochi passi dalla Tuscia, il lago di Bracciano. Ci siamo conosciuti a un concerto, scambiandoci sguardi prima e contatti poi, in una serata in cui sono state galeotte piadine e piccole stelle. Il primo appuntamento a Firenze, un bacio spaventato da quello che avrebbe potuto accadere e l'incoscienza di volere provare a scrivere il destino e non subirlo passivamente. E così è stato. Per 5 anni e mezzo abbiamo fatto a vicenda su e giù per lo stivale, come avventurieri tra sconti dell'alta velocità e come corridori per non perdere l'ultima coincidenza che ci avrebbe portato l'uno dall'altra e viceversa. Siamo diventati cuochi, esperti di bed and breakfast, psicologi, confidenti, avversari, rifugio sicuro e mare in burrasca. Siamo stati milioni di cose diverse e altrettanti milioni saremo in futuro, perché amore e creatività, rinnovamento, rinascita, sono spesso sinonimi. Le prove nella vita in questi anni non sono mai mancate. Ritardi mostruosi dei treni, dovere centellinare ogni centesimo per potersi vedere, imprevisti al lavoro, paure e debolezze che si scoprono nel momento in cui si è più vulnerabili. Eppure nulla ci ha mai tenuti lontano. Anzi, il nostro amore si è sempre rafforzato. Poi è accaduto quello che nessuno dei due poteva aspettare. Il decreto del Presidente del Consiglio. Una condanna. Non si esce, non si entra dalla Lombardia. Smarrito e perso, percepisco una sensazione strana, come una sorta di clandestinità al contrario. Poi il mio pensiero va a lei. Di lì a quei giorni avremmo dovuto vederci per quelli che chiamiamo i nostri giorni in più. Avevo una voglia pazzesca di vederla. Mi mancava il suo profumo, la sua pelle, il suo viso al momento del risveglio, le nostre risate, il cuore rigonfio di luce. Avevo voglia di noi. La situazione però è grave. In un momento in cui ognuno è chiamato a fare la sua parte per la salute propria e degli altri, capiamo che serve un sacrificio. Ma il sacrificio più duro arriva quando un'altra speranza viene vanificata. Il decreto mette come termine il 3 di aprile. Dobbiamo dire addio al viaggio per il nostro 6° anniversario. E ancora di più, dobbiamo stare separati nell'unica data in cui è per noi sacro essere insieme. Rabbia e frustrazione durano poco, il tempo di guardare verso l'alto e cercare un buon motivo per non imprecare. Ce la faremo, è la prima cosa che ci diciamo. Impariamo che cosa significhi l'amore ai tempi del coronavirus. Comprendiamo forse in maniera più volenta rispetto al passato cosa significhi stare separati. Ci videochiamiamo su FaceTime anche più volte al giorno, magari senza dirci nulla di importante. Dietro uno schermo vedo le sue minuschie meraviglie. Lei dice che mi accarezza la barba sfiorando il telefono. Ci aggrappiamo alla fantasia, alla musica, dedicandoci canzoni che prima forse non avremmo ascoltato. Cerchiamo di sentirci meno lontani, raccontandoci nel dettaglio le nostre giornate. Le restrizioni finiranno e potremo tornare alla normalità, prima o poi, a costruire il nostro progetto di vita comune. Ogni sera, prima di addormentarmi, penso al momento in cui non ci saranno schermi o decreti a tenerci lontani, in cui potremo sfiorarci i volti con le nostre mani, passare dal ce la faremo al ce l'abbiamo fatta. Oggi è venerdì e, come succede venerdì, arriviamo, ahimè, alla fine della settimana in cui raccontiamo la nostra storia seriale, e in questo caso arriviamo alla fine della storia vera e propria. Sono state 3 settimane, devo dire, molto molto intense. Noi abbiamo avuto la possibilità di recuperare Irene e la sua storia davvero al volo, perché insomma, se siete degli abitué di Linea d'Ombra, sapete che di solito le storie seriali le raccontiamo quando sono accadute, quando sono finite, quando le persone che le hanno vissute ci hanno messo in mezzo del tempo e dello spazio. Abbiamo però sentito in questo caso l'esigenza di provare a raccontare questo momento e di farlo a modo nostro, cioè attraverso le storie di vita delle persone. Abbiamo avuto la grande fortuna di incontrare Irene, che si è prestata, è stata davvero gentilissima a raccontare a Mauro tutta la sua storia, quindi l'abbiamo seguita e, come sempre facciamo alla fine di ogni storia, questo è l'ultimo episodio di questa storia, sentiamo con la persona al telefono e quindi siamo felicissimi di avere con noi Irene. Pronto? Ciao Irene, buongiorno. Ciao, buongiorno. Irene, la prima cosa, mai come in questo caso, mai come nel caso della tua storia, che vogliamo chiederti è: come stai e come state? Molto meglio, grazie, molto meglio. Siamo molto meglio di salute, stiamo molto meglio per aver ripreso nostro figlio, soprattutto in casa con noi. Quanto, alla fine, quanto tempo è stato lontano Giovanni da voi due? Un mese e mezzo. Mamma mia. All'età di 8 anni, giusto? Sì, tantissimo. Senti, come l'hai trovato quando l'hai rivisto? Aveva perso un dente, un altro dondolava, è cresciuto. E immagino anche che per voi saperlo, no, saperlo era, là era sia stata... Era fisso, c'era lui c'era, quando sono stata in isolamento, c'era lui, c'era questo piccolo che deve ancora nascere. Perché infatti, perché esatto, non dimentichiamoci in tutto questo, ne stiamo parlando da 3 settimane, che tu, Irene, sei incinta di ormai quanti mesi? 7 mesi, alla fine del settimo mese sono, sì. Quindi nasce quando esattamente? A giugno? Quando nasce, a questo punto doveva nascere i primi di luglio, però adesso sono a forte rischio di parto prematuro. Quindi sei a letto. A riposo forzato per cercare di portare avanti qualche altra settimana, insomma, perché ora andrebbe in terapia intensiva, un'altra volta con questa minaccia della terapia intensiva. Direi anche basta la terapia intensiva, no? Dopo queste... Senti, quando arrivati in ospedale, cioè innanzitutto ce l'hai raccontato bene, tuo marito di fatto siete riusciti a portarlo in ospedale grazie all'intercessione di un medico, amico, giusto? La solita, l'incredibile raccomandazione. Grazie a un amico che conosceva degli amici, insomma. E la cosa assurda è che quando siete arrivati vi hanno detto, dovevate venire prima. Certo. Siccome erano 12 giorni che era malato a casa con la febbre alta, la prima domanda gli hanno fatto, ma perché non sei venuto prima? Senti, tu invece, la tua è stata un pochettino più leggera, dico bene? E io mi chiedo perché non sono stata in grado di portarcelo io in qualche modo prima, perché questa è l'altra cosa che mi chiedo, però non ero in grado di valutare la gravità della situazione. No, e poi soprattutto, Irene, e poi soprattutto, diciamo, c'è una cosa che ci hanno detto dall'inizio, ed era rimanete a casa, e noi ci siamo fidati. È l'unica frase che ci e noi, esatto, e noi giorni. E noi ci siamo fidati. E poi senza che un medico ti venga a valutare, io non sono nessuno di noi due è un medico, siccome la situazione non è che è peggiorata repentinamente, è stata una situazione graduale che non migliorava per niente, anzi, certo. Insomma, era un po', però io non ero in grado di, anzi, qualcuno ci dice di valutare la gravità, qualcuno diceva non andate all'ospedale che se non è quello lo prende. Certo, però era chiaro. Un medico che ti visita e che... Ma infatti devo dire che dalla tua storia, uno dei tanti aspetti che vengono fuori è proprio la sensazione di solitudine assoluta in cui vi siete trovati. L'abbandono. L'unica cosa che, diciamo, chiamiamolo il sistema sanitario, voleva era che non uscissimo di casa. C'è qualcuna delle persone che vi hanno curato, che come tu ci racconti non vedevi in faccia perché era impossibile? Quasi tutti, però che ti ricordi o di cui hai un contatto? Ovviamente no. Una sola dottoressa che ci parlava dal vetro della camera, la dottoressa Porchi, è stata bravissima, sempre presente, lei ce l'ho ben presente. E poi c'era una OS, neanche un'infermiera, una OS che la mattina alle 5 quando usciva di casa si preparava un sacchettino di roba da portare a me. Ho avuto la fortuna che il giorno che è stato un sapone, che è stata una crema, sono stati dei limoni, cioè cose proprio incredibili. E quindi sono riuscita a vederla il giorno che ci hanno dimesso e quindi le ho chiesto il numero di telefono e ci siamo... anche perché spero prima o poi ci si possa rincontrare, certo. Non è possibile, però certo, chiaramente. Prima o poi. Senti, Irene, tu più o meno alla fine del racconto hai detto una cosa che a me è rimasta impressa. Tu hai detto, io mi auguro che da qui a quando la mia storia andrà in onda, cioè da quando l'hai raccontata a Mauro Pescio, che più o meno erano 2 settimane prima rispetto alla messa in onda, da quando andrà in onda la nostra situazione sia diversa, e mi auguro di sentire la mia voce, il racconto, e pensare come un evento del passato recente, non più come un evento del presente. Com'è? È stato così? Sentendomi è ancora presente, però adesso ho altro a cui pensare. Giustamente, sto concentrata giustamente. Sempre su quello, però è troppo presto. Senti, e poi ti lascio andare davvero, non ti disturbo più. È un maschio o una femmina? È un maschio. Avete già deciso come chiamarlo? No, sto oscillando fra il nome del ginecologo, tutti quelli che mi hanno aiutato tantissimo. Vabbè, avrete modo di pensarci. Irene, grazie. Ma ci penserà il bambino, altro bimbo. Ah, giusto, Giovanni a trovarlo. Grazie davvero, Irene, è stato insomma un piacere sentire la tua storia, abbiamo un pochettino sofferto tutti quanti con voi ed è un piacere veramente sapere che state bene. Facci sapere come lo chiamate allora. Vabbè, magari mandaci una storia. In bocca al lupo, Irene. Grazie mille, a presto. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. E grazie ancora, grazie davvero ancora ad Irene per averci raccontato la sua storia. Le auguriamo il meglio a lei e a tutta la sua famiglia. Grazie a Mauro Pescio che l'ha raccolta e grazie a tutti quelli che fanno questo programma. Oltre a Mauro e oltre a me ci sono Anita Panizza, Luca Micheli e Paolo Corleoni. Grazie a voi che continuate a mandarci le vostre storie. linee d'ombra@radio24.it. Godetevi questo fine settimana, ci sentiamo lunedì sempre alle 15 per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!